Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizio e ben ritrovati all'appuntamento con la cronaca, le storie, i fatti e i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. Si è celebrato oggi, come avete sentito anche nei nostri giornali radio, nell'anniversario della morte del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ucciso 33 anni fa dalle Brigate Rosse, la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi, una ricorrenza che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto già dal 2007 dedicare ai magistrati e agli alti rappresentanti delle istituzioni che hanno perso la vita a causa di attentati e agguati. Quel giorno, il 9 maggio del 1970, i pensieri di tutti corsero naturalmente all'omicidio del presidente della Democrazia Cristiana, ma poche ore prima era stato assassinato dalla mafia anche un giovane politico siciliano, Peppino Impastato. La storia ce la racconta Sabrina Pisu. Con un po' di ritardo comunque arriviamo, si arriva onda pazza, trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di Fanta Politica di Radio Auto. Questa è la voce di Peppino Impastato, che da Radio Auto denunciava con la satira le istituzioni politiche di Cinisi, colluse con Cosa Nostra. In questa puntata, western a Mafiopoli, è con il compagno Salvo Vitale. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, lo Z11. Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita, si aspetta il verdetto. Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua. Ci sono tutti. C'è il grande capo, i due grandi capi, Pano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. A 30 chilometri da Palermo, in questo piccolo paese stretto tra il mare e la montagna, c'è la storia di Peppino, brutalmente interrotta dalla mafia nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978, quando il suo corpo è dilaniato da una bomba sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani. È passato poco più di un mese dalla messa in onda di questa puntata di Onda Pazza, il ricordo di una voce libera in una radio libera, nelle parole di Salvo Vitale. La radio nacque intorno al 1 maggio del 1987, perché c'erano un paio di radio a Palermo democratiche, una si chiamava Radio Sud e Radio Pace. Radio Pace chiuse e per cui c'era disponibile questo trasmettitore. Quando Peppino lo seppe, disse: lo voglio. Per cui lo andammo a comprare per pochi soldi. Montammo questa radio a Terrasini. In Terrasini è un paese a 1,5 km, dove c'era una diffusione maggiore. Comprammo invece a cambiare un'antenna, quel po' che c'era disponibile. A suo tempo non è che ci voleva molto a montare una radio, bastava chiedere la lunghezza d'onda in prefettura e indicare un responsabile. Così abbiamo dato vita a questa esperienza, che rispetto comunque ad altre radio era atipica, nel senso che non si facevano pubblicità, era tutto autofinanziato, si faceva musica di un certo tipo e soprattutto si faceva moltissima informazione, anzi, come la chiamavamo noi allora, controinformazione. Peppino combatteva la mafia con la forza delle parole, calpestando con irriverenza il rispetto dovuto agli uomini d'onore. Il suo bersaglio è Gaetano Badalamenti, capo della cupola dal 1974 al 1978, che derideva nella puntata western a Mafiopoli. Il Consiglio Comunale aveva autorizzato la costruzione di un villaggio turistico, i cui azionisti erano 4 mafiosi, amici di Gaetano Badalamenti. C'era anche un finanziamento di 6 miliardi della Cassa del Mezzogiorno e mezzo. Il Consiglio Comunale aveva molto facilmente dato tutte le autorizzazioni e per cui noi abbiamo ricostruito il tutto immaginando che il villaggio turistico fosse un villaggio indiano. Naturalmente il capo del villaggio indiano era Tano Seduto, ovvero Gaetano Badalamenti, e il suo complice era il sindaco di Cinisi, che si chiamava Gero Di Stefano, che diventava Geronimo naturalmente. Noi venerdì sera facevamo questa trasmissione Onda Pazza, satiro politico schizofrenica, che metteva un po' alla berlina e con molta satira tutte le connessioni tra i politici e i mafiosi, tutte le speculazioni mafiose sul territorio. L'onorabilità della gente di rispetto veniva proprio messa sotto i piedi. Certamente questo è stato uno dei moventi dell'omicidio di Peppino, perché la rispettabilità dei boss in Sicilia è intoccabile. Peppino ha 30 anni quando viene ucciso, è un militante di Democrazia Proletaria e si è rappresentato alle elezioni comunali di Cinisi. Studia filosofia, fonda il giornale L'Idea Socialista, anima l'associazione Musica e Cultura, scrive poesie. È un giovane sensibile, schierato dalla parte dei più deboli, con una grande sete di giustizia, racconta il fratello Giovanni. Peppino era animato di una grande voglia di giustizia, di libertà, impegnato con tutto se stesso in questa difficile battaglia. Diciamo che era una persona molto sensibile, con una carica umana impressionante. Per lui la prima cosa che veniva era il rispetto della dignità umana, il rispetto dell'uomo, dei suoi valori. Stava a fianco alla gente che soffriva, che aveva bisogno di cambiare la sua triste realtà. La sua attività sociale e politica ha inizio nel 65 come reazione a una condizione familiare che Peppino definisce insostenibile. Taglia le sue radici mafiose, incarnate nella figura del padre Luigi. Io ricordo momenti di forte tensione quando lui veniva buttato fuori di casa, questi conflitti con il padre che cercava di imporci le sue idee, il suo codice comportamentale che era quello del mafioso. Luigi in passato fa parte di una famiglia di piccoli allevatori legati a Cosa Nostra. Accanto a Peppino c'è una donna coraggiosa, la madre Felicia, che difende il figlio dal marito e fino all'ultimo dei suoi giorni, il 7 dicembre 2004, lotta per ottenere giustizia. Mia madre era una donna esemplare. Quando è stata costretta a fare una scelta, non si è schierata dalla parte della mafia, dalla parte del marito, ma si è schierata dalla parte della giustizia, della legalità, dalla parte del figlio. Dopo la morte del figlio non si è lasciata dominare dalle lacrime, ha aperto la sua casa a tutti. La casa di Peppino oggi è la casa della memoria. Casa Memoria è diventata il simbolo di una resistenza. Prima di morire lei diceva sempre: non chiudete mai questa casa, perché quella è la casa di tutti. E il ricordo di Peppino non si deve disperdere. Dentro Casa Memoria ci sono 33 anni di battaglie. C'è l'ostinazione di Peppino e quella dei suoi familiari e compagni che hanno combattuto per ottenere verità dopo tanti depistaggi istituzionali, dice Franca in Bergamo. Oggi sostituto procuratore generale a Caltanissetta, è stata il PM nel processo Impastato. Ormai è un dato assodato che le indagini sulla morte di Peppino Impastato siano state condotte all'inizio con grande approssimazione e poi con una serie di depistaggi veri e propri. Depistaggi istituzionali li ha definiti la Commissione parlamentare antimafia che si è occupata del caso. Quindi a questo punto di vista noi abbiamo l'accertamento di una commissione del Parlamento con poteri inquirenti che ha parlato chiaramente di indagini volutamente indirizzate altrove, mentre era assolutamente evidente e logico già all'epoca che la matrice mafiosa dell'omicidio dovesse essere messa in evidenza. Ma vi è di più, si è voluto far credere per anni che Peppino Impastato si fosse suicidato nel tentativo maldestro di compiere un attentato alla linea ferroviaria, cercando in qualche maniera, anzi sicuramente con grande efficacia, di sporcarne la memoria, cosa che non è stata possibile grazie alle indagini più volte riaperte nonostante le chiusure, le archiviazioni. Vorrei ricordare il lavoro dei giudici Falcone, Chinnici, Borsellino e tanti altri che sono succeduti con diverso ordine temporale in questo genere di indagini. E vorrei ricordare anche che l'omicidio Peppino Impastato era uno stralcio, era un capitolo del maxi processo 1, quello di Falcone e Borsellino, era contenuto nella maxi istruttoria di cui si è occupato anche il giudice Chinnici. Quindi una storia giudiziaria grande, ingombrante per certi versi, e una grande responsabilità anche nei confronti di questi magistrati. Quando l'ho presa tra le mani le carte, ho cercato di raccogliere le ultime prove, quelle che hanno concesso di poter aprire un processo e farlo fino alla fine condannando Badalamenti. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo, il vice di Badalamenti, colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è condannato all'ergastolo. In tanti, soprattutto giovani, anche quest'anno sono arrivati a Cinisi per ricordare Peppino, per seguire il forum sociale antimafia, per partecipare al corteo che come sempre sfila con una sola voce. Peppino è vivo! Arrivati a Terrasini, si apre la finestra della sede di Radio Out. Viene steso un cartellone con sopra il volto disegnato di Peppino e sembra quasi di sentire ancora la sua voce che infrange il muro del silenzio, quel silenzio che uccide come la mafia. Ed è tutto anche per questa puntata. Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete commentare i servizi che sono andati in onda o scriverci le storie che voreste sentire. controluce@radio24.it. Siamo anche su Facebook, Radio 24, Italia in Controluce. Buona giornata.